Nona traccia. Nel suo desiderio di separarsi da loro per quanto le era possibile, Emma poco dopo prese un sentierino un po' rialzato a fianco della strada, lasciando loro in questa. Ma non era là da 2 minuti che vide che le abitudini di dipendenza ed imitazione di Harriet portavano lassù lei pure, e che, insomma, in un momento entrambi sarebbero stati dietro di lei. Questo non andava. Essa si fermò immediatamente, col pretesto di riallacciarsi uno stivaletto, e curvandosi in modo da sbarrare il sentiero, gli pregò d'aver la cortesia di andare avanti, e lei li avrebbe seguiti in 30 minuti. Essi fecero come era detto loro, e quando Emma giudicò ragionevole d'aver finito col suo stivaletto, ebbe il conforto di poter prolungare il suo indugio che ella raggiunse una bambina dal casolare, la quale, secondo gli ordini, s'avviava con la sua brocca per andare a prendere del brodo a Harfield. Camminare accanto a questa bambina e parlare a lei e interrogarla era la cosa più naturale del mondo, o lo sarebbe stato se essa avesse agito a loro senza premeditazione. E in questo modo gli altri potevano ancora proseguire senza alcun obbligo di attenderla. Tuttavia, senza volere, essa si veniva avvicinando a loro. Il passo della bambina era rapido e quello dei due piuttosto lento, ed Emma se ne preoccupava tanto più in quanto essi erano evidentemente impegnati in una conversazione che gli interessava. Mr. Elton parlava animatamente. Harriet l'ascoltava con attenzione soddisfatta. Ed Emma, avendo mandato innanzi la bambina, cominciava a pensare come poter rimanere addietro un po' di più, allorché entrambi si voltarono e lei fu obbligata a raggiungerli. Mr. Elton stava ancora discorrendo, ancora occupato a esporre qualche interessante particolare, ed Emma provò non poco disappunto quando s'accorse che egli stava solo raccontando alla sua bella compagna la riunione che aveva avuto luogo il giorno prima dal suo amico Cole, e che essa arrivava al momento del formaggio di Stilton, di quello del Wiltshire settentrionale, del burro, del sedano, della barbabietola e di tutto quel che si serve alla fine del pranzo. Ciò avrebbe presto condotto a qualcosa di meglio, naturalmente, si consolò con questa riflessione. Ogni cosa interessa tra gente che si ama, e ogni cosa può servire a introdurre il soggetto che sta a cuore. Se solo io potessi essere rimasta lontana un po' di più. Ora seguitarono a camminare insieme tranquillamente, finché apparve alla vista il recinto della casa canonica, e allora un'improvvisa risoluzione di far almeno entrare Harriet in quella casa fece sì che di nuovo Emma trovasse che qualcosa proprio non andava con la sua scarpa e rimanesse indietro per accomodarla di nuovo. Allora essa strappò il laccio e, gettandolo abilmente in un fosso, fu obbligata a pregarli di fermarsi e a riconoscere la sua incapacità a rimettersi in sesto in modo da poter camminare fino a casa senza troppo disagio. «Un pezzo del mio laccio se n'è andato», disse, «e non so come fare. Davvero sto diventando per voi una compagna incomoda, ma spero di non essere di frequente così male attrezzata. Mr. Elton, devo chiedere il permesso di fermarmi alla vostra canonica e di domandare alla vostra governante un pezzo di nastro o di spago o qualunque cosa per tenere a posto la mia scarpa». A questa proposta Mr. Elton si illuminò di gioia e nulla poteva superare la sua premura e la sua attenzione nel condurre le due donne nella casa e nel tentare di far apparire ogni cosa in una luce favorevole. La stanza in cui vennero condotte era quella che egli occupava principalmente e guardava sulla facciata. Dietro ce n'era un'altra con la quale comunicava immediatamente. La porta tra le due era aperta e Emma la varcò con la governante per ricevere l'aiuto di costei nel modo più comodo. Fu obbligata a lasciare la porta socchiusa come l'aveva trovata, ma intendeva senz'altro che Mr. Elton la chiudesse. Tuttavia non venne chiusa, rimaneva sempre come lei l'aveva lasciata. Ma impegnando la governante in un'incessante conversazione, sperava di render possibile a lui di scegliere il suo proprio tema nella stanza attigua. Per 10 minuti Emma non riuscì a udire che se stessa, poi l'espediente non poté protrarsi oltre. Emma fu costretta a finire e a ricomparire. Gli innamorati stavano insieme a una delle finestre. Le cose sembravano promettere bene in apparenza. E per mezzo minuto Emma assaporò l'orgoglio d'essere ricorsa a uno stratagemma fortunato. Ma no, neanche stavolta ci si era riusciti, non si era venuti al punto. Egli era stato piacevolissimo, incantevole. Aveva detto a Harriet d'averle vedute passare e di averle seguite di proposito. Erano state lasciate cadere altre piccole galanterie e allusioni, ma nulla di serio. «Cauto, cautissimo», pensò Emma, «avanza con i piedi di piombo e non vuol rischiare nulla finché non si ritiene sicuro». Tuttavia, sebbene il suo ingegnoso espediente non fosse riuscito a piena, Emma non poteva d'altronde non lusingarsi che esso avesse offerto occasione a entrambi di passare insieme un lieto quarto d'ora e che dovesse condurli più vicino al grande evento. Ora Mr. Elton doveva essere lasciato a se stesso. Non era più in potere di Emma di soprintendere alla sua felicità o di accelerare i suoi tempi. L'arrivo della famiglia della sorella di Emma era così prossimo che, dapprima nell'aspettativa, poi nella realtà, divenne d'ora innanzi il suo primo oggetto di interesse. E durante i 10 giorni del loro soggiorno a Hartfield, non poteva aspettarsi, lei stessa non si aspettava, che ella offrisse agli innamorati più di un'assistenza occasionale e fortuita. Se volevano, tuttavia, potevano fare rapidi progressi e, volessero o no, in un modo o nell'altro dovevano avanzare. Essa non desiderava neppure d'aver più tempo libero per loro. C'è della gente che più si fa per loro, meno fanno per se stessi. Mr. e Mrs. John Knightley, essendo rimasti più a lungo del solito assenti dal Surrey, suscitavano naturalmente più dell'ordinario interesse. Fino a quest'anno ogni lunga vacanza dall'epoca del loro matrimonio era stata divisa tra Hartfield e l'abbazia di Donwell, ma tutte le vacanze di quell'autunno erano state dedicate ai bagni di mare dei bambini, sicché parecchi mesi erano trascorsi da quando essi non erano stati visti in modo regolare dai loro parenti nel Surrey o visti affatto da Mr. Woodhouse, che non poteva venir persuaso a recarsi fino a Londra neanche per via della povera Isabella e che di conseguenza era adesso quanto mai nervoso e apprensivo nella sua felicità per questa attesa visita troppo breve. Egli pensava parecchio ai pericoli del viaggio per lei e non poco alle fatiche dei propri cavalli e del proprio cocchiere che doveva trasportare alcuni degli ospiti per il secondo tratto di strada. Ma i suoi allarmi risultarono inutili, che le 16 miglia furono felicemente percorse e Mr. e Mrs. John Knightley, i loro 5 bambini e un congruo numero di bambinaie raggiunsero tutti Hartfield sani e salvi. Il trambusto e la gioia ad un tale arrivo, la quantità di gente a cui c'era da parlare, da dare il benvenuto, che doveva essere incoraggiata e distribuita in varie parti e sistemata, produssero un rumore e una confusione che i suoi nervi non avrebbero potuto sopportare per nessun'altra causa, né tollerare molto più a lungo anche per questa. Ma le abitudini di Hartfield e i sentimenti del padre erano talmente rispettati da Mrs. John Knightley che, malgrado la sollecitudine materna per l'immediato godimento dei piccoli e perché essi avessero subito tutta la libertà e l'attenzione, tutto il mangiare e tutto il bere e il sonno e il gioco che essi potessero desiderare senza il minimo indugio, a codesti bambini non era mai consentito che recassero a lui disturbo per molto tempo, o per loro medesimi o per qualche servizio movimentato che essi richiedessero. Mrs. John Knightley era una donnina graziosa ed elegante, di maniere gentili e calme e d'indole assai amabile ed affettuosa, tutta presa dalla sua famiglia, moglie devota, madre adorante, sì teneramente attaccata al padre e alla sorella che, non fosse stato per questi vincoli più alti, un amore più caldo sarebbe sembrato impossibile. Essa non poteva vedere difetti in nessuno di loro. Non era una donna di robusto intelletto o dotata di prontezza. E con questo tratto simile al padre, ereditava anche molto della sua costituzione. Era delicata di salute, troppo preoccupata di quella dei figli. Aveva molti timori e molte trepidazioni, ed era così affezionata al suo Mr. Wingfield a Londra quanto il padre poteva esserlo a Mr. Perry. Erano simili anche in una generale bonarietà e in un'inveterata abitudine di riguardo verso ogni vecchia conoscenza. Mr. John Knightley era un uomo alto, distinto e molto bravo. Aveva fatto carriera nella sua professione, era amante della casa e pieno d'onorabilità nella sua vita privata, ma con maniere riservate che gli impedivano di piacere a tutti, e capace d'essere talvolta di cattivo umore. Non era un uomo di carattere difficile, né si spesso irritato senza ragione da meritare tal rimprovero, ma il suo carattere non era la sua grande perfezione, e invero con una moglie che l'idrolatrava a quel modo non era possibile che i naturali difetti di quel carattere non dovessero accentuarsi. L'estrema dolcezza del carattere di lei doveva recar detrimento a quello di lui. Egli aveva tutta la chiarezza e la prontezza d'ingegno che mancavano a lei, e poteva talvolta commettere un atto sgarbato o dire una parola severa. Non era troppo nelle grazie della sua bella cognata. Nessun difetto di lui le sfuggiva. Essa era pronta ad afferrare i piccoli torti che egli faceva a Isabella, che Isabella non sentiva neppure. Forse essa avrebbe chiuso più di un occhio se i suoi modi fossero stati lusinghieri per la sorella di Isabella, ma essi erano solo quelli d'un fratello ed un amico quietamente cortese, senza lode e senza accecamento. Ma nessun grado di cerimoniosità verso di lei l'avrebbe potuta far passare sopra le colpe che ai suoi occhi era di tutte la maggiore, in cui egli cadeva talvolta, la mancanza di rispettosa sopportazione verso suo padre. A questo proposito, egli non aveva sempre la pazienza che poteva desiderarsi. Le idiosincrasie e l'agitazione di Mr. Woodhouse provocavano in lui una rimostranza ragionata o una brusca replica servite con mala grazia. Ciò non accadeva spesso, poiché Mr. John Knightley aveva in fondo un gran rispetto per il suocero e in genere un forte senso dei suoi doveri verso di lui, ma era troppo spesso per la pietà filiale di Emma, visto soprattutto che di frequente c'era da tollerare tutta la pena dell'apprensione, sebbene poi l'offesa non venisse. Tuttavia, il principio d'ogni visita non metteva ai mostri che i sentimenti più corretti, e siccome questa visita era di necessità così breve, si poteva sperare che trascorresse con indisturbata cordialità. Non erano stati a lungo seduti tranquilli allorché Mr. Woodhouse, scuotendo melanconicamente la testa e sospirando, richiamò l'attenzione della figlia sul triste mutamento avvenuto a Harfield dall'ultima volta che lei c'era stata. «Ah, mia cara», disse egli, «povera Miss Taylor, è una faccenda penosa». «Oh sì, davvero, babbo», esclamò lei con pronta simpatia, «come deve mancarti, e anche alla cara Emma, che perdita terribile per voi due. Me ne è tanto dispiaciuto per voi. Non riesco a immaginare come possiate fare senza di lei. È davvero un triste mutamento, ma spero che lei si trovi abbastanza bene, babbo». «Abbastanza bene, mia cara, spero abbastanza bene. Mi risulterebbe che il luogo le si confà discretamente». A questo punto, Mr. John Knightley chiese pacatamente a Emma se si avevano dubbi circa l'aria di Randall. «Oh no, affatto! Non ho mai visto Mrs. Weston godere miglior salute, avere un aspetto più florido. Papà manifesta soltanto il suo rammarico». «Ciò fa onore a entrambi», fu la cortese risposta. «E la vedi babbo abbastanza spesso?» chiese Isabella col tono lamentoso, che era proprio quello che si confaceva a suo padre. Mr. Woodhouse esitò. «Non così spesso, mia cara, quanto potrei desiderare». «Oh, babbo, siamo stati senza vederli soltanto un'intera giornata da quando si sono sposati. O la mattina o la sera d'ogni giorno, a eccezione d'uno, abbiamo visto o Mr. Weston o Mrs. Weston, e in genere entrambi, o a Randalls o qui, e come puoi supporre Isabella qui il più delle volte. Essi sono molto, molto gentili nelle loro visite. Mr. Weston, in verità, è gentile quanto lei. Babbo, se tu parli in quel modo melanconico, darai a Isabella un'idea falsa di noi tutti. Ognuno deve accorgersi che bisogna fare a meno di Miss Taylor, ma ognuno dovrebbe anche venire rassicurato che Mr. e Mrs. Weston riescono effettivamente a impedire che noi sentiamo la mancanza di lei al punto che temevamo. E questa è né più né meno che la verità». «Proprio così dovrebbe essere», disse Mr. John Knightley, «e proprio così io speravo che fosse dalle vostre lettere. Il desiderio di lei di usarvi riguardi non potrebbe mettersi in dubbio, e il fatto che egli è un uomo libero da impegni e socievole rende facile la cosa. Ti ho sempre detto, amor mio, che io non avevo idea che il mutamento fosse tanto importante per Alfie quanto temevi. E ora che Emma ti ha detto come stanno le cose, spero che sarai soddisfatta». «Sì, certo», disse Mr. Woodhouse. «Sì, indubbiamente, non posso negare che Mrs. Weston, la povera Mrs. Weston, non venga a vederci molto spesso, ma poi è sempre costretta ad andarsene via di nuovo». «Sarebbe molto penoso per Mr. Weston se essa non lo facesse, babbo. Tu dimentichi affatto il povero Mr. Weston». «Già, io credo», disse piacevolmente John Knightley, «che Mr. Weston abbia qualche diritto. Tu ed io, Emma, ci arrischieremo a prendere la parte del povero marito. Poiché io sono un marito e tu non sei una moglie, è probabile che i diritti dell'uomo ci colpiscono con egual forza. Quanto a Isabella, è stata sposata abbastanza a lungo per vedere la convenienza di mettere da parte tutti i Mr. Weston per quanto può». «Io, amor mio», esclamò sua moglie, sentendo e comprendendo solo a metà, «state parlando di me? Son certa che nessuno dovrebbe essere, o può essere, un più grande patrocinatore del matrimonio di quel che non lo sia io. E se non fosse stato per la pena del suo dover lasciare Harfield, io non avrei pensato a Miss Taylor che come alla più fortunata donna della terra. E quanto a tenere in poco conto Mr. Weston, quell'eccellente Mr. Weston, io credo che nessun elogio sia alto abbastanza. Io credo che sia uno degli uomini d'indole più buona che mai siano esistiti. Eccetto te e tuo fratello, non conosco il suo eguale per bontà di carattere. Non mi dimenticherò mai come aiutò a far volare l'aquilone di Henry quel giorno ventoso la Pasqua scorsa. E da quando mi usò quella particolare cortesia, fece un anno lo scorso settembre, di scrivere quel biglietto a mezzanotte per rassicurarmi che a Cobham non c'era scarlattina, sono rimasta convinta che non poteva esistere un cuore più sensibile né un uomo migliore. Se c'è una che può meritarlo, deve essere Miss Taylor». «Dov'è il giovanotto?» chiese John Knightley. «È stato qui in questa occasione o no?» «Non è ancora stato qua», rispose Emma. «C'era una grande aspettativa che egli venisse subito dopo il matrimonio, ma finì in nulla, e ultimamente non ho sentito parlare di lui». «Ma tu dovresti dir loro della lettera, mia cara», disse suo padre. «Ha scritto una lettera alla povera Mrs. Weston per congratularsi con lei e dire una lettera molto appropriata e bella. Lei me la mostrò. Mi parve un bell'atto da parte sua. Se poi l'idea venisse proprio da lui, sapete, non si può dire. Egli è molto giovane e forse suo zio, Babbo Caro, ha 23 anni. Tu dimentichi che il tempo passa. 23 anni, davvero? Ebbene, non l'avrei immaginato. Ed egli non aveva che 2 anni quando perse la sua povera mamma. Ah, il tempo fugge davvero e la mia memoria è molto cattiva. In ogni modo, era una lettera proprio buona e graziosa e fece un gran piacere a Mr. e Mrs. Weston. Mi ricordo che era scritta da Weymouth e datava 28 settembre e cominciava: «Mia cara signora», ma non mi ricordo come continuava, ed era firmata F.C. Weston Churchill. Me lo ricordo perfettamente. «Come amabile e appropriato da parte sua!» esclamò la buona Mrs. John Knightley. «Non dubito affatto che non sia un giovanotto amabilissimo, ma com'è triste che egli non viva a casa di suo padre. C'è qualcosa che proprio turba all'idea di un figlio tolto ai suoi genitori e al suo ambiente naturale. Non so capacitarmi come Mr. Weston si sia potuto separare da lui, rinunziare al proprio figlio. Davvero non riesco a pensare bene di uno che proponga a chiunque altro una cosa simile». «Nessuno ha mai pensato bene dei Churchill, mi immagino», osservò senza scomporsi Mr. Knightley. «Ma non devi immaginare che Mr. Weston abbia sentito quel che sentiresti tu se dovessi rinunziare a Harry o a John. Mr. Weston è piuttosto un uomo d'indole facile e gaia, che è uno di forti sentimenti. Prende il mondo come viene e ne trae piacere in un modo o nell'altro, facendo assegnamento per i suoi comodi più su quel che si chiama società, cioè sul potere di mangiare e di bere e di giocare a whist con i suoi vicini 5 volte la settimana, che sull'affetto della famiglia o su qualunque cosa offra la vita domestica». A Emma non poteva piacere ciò che rasentava una critica a Mr. Weston e stava per ribattergli, ma si contenne con uno sforzo e lasciò correre. Voleva mantenere la pace per quanto possibile. E poi c'era qualcosa di decoroso e di prezioso nelle forti abitudini domestiche del cognato, nella completa sufficienza della casa per lui, da cui proveniva quella tendenza a guardare dall'alto in basso gli ordinari rapporti sociali e coloro ai quali sembrano importanti. Sì, la cosa meritava la più ampia tolleranza. Mr. Knightley doveva pranzare con loro, piuttosto contro l'inclinazione di Mr. Woodhouse, a cui non garbava che qualcuno dovesse aver parte con lui nel primo giorno di Isabella. Tuttavia, il senso di giustizia di Emma aveva deciso ciò, ed oltre alla conversazione di quanto era dovuto a ciascuno dei 2 fratelli, essa provò un piacere particolare, data la circostanza del recente screzio tra lei e Mr. Knightley, a procurargli l'invito che gli spettava. Essa sperava che adesso avrebbero rifatto amicizia, pensava che era tempo di riconciliarsi. Anzi, non poteva parlarsi di riconciliazione. Lei certamente non era stata nel torto e lui non avrebbe mai ammesso di esserlo stato. Non era davvero il caso di far concessioni, ma era l'ora di mostrare di dimenticare che essi avessero avuto un litigio, ed Emma sperava che avrebbe aiutato a restaurare l'amicizia la circostanza che quando egli entrò nella stanza essa aveva con sé uno dei bimbi, la più piccina, una graziosa pargoletta di circa 8 mesi, che ora faceva la sua prima visita a Hartfield, e che era felice di sentirsi sballottare tra le braccia della zia. E questa circostanza fu effettivamente d'aiuto, poiché, sebbene Mr. Knightley cominciasse col muso lungo e con domande brevi, presto fu indotto a parlare di tutti loro nel modo solito e a toglierle di braccio la bambina con tutta la familiarità del perfetto affiatamento. Emma sentì che erano di nuovo amici, e come questa convinzione fece sì che dapprima si sentisse molto soddisfatta e poi un po' impertinente, non poté trattenersi di dire, mentre egli ammirava la bimba: «Che conforto che la pensiamo allo stesso modo circa i nipoti e le nipotine! Quanto agli uomini e alle donne, le nostre opinioni talvolta sono molto differenti, ma riguardo a questi bambini osservo che non siamo mai in disaccordo. Se voi foste altrettanto guidata dalla natura nella vostra stima degli uomini e delle donne, e così poco sotto l'influsso della fantasia e del capriccio nei vostri rapporti con essi, quanto lo siete allorché si tratta di questi bambini, potremmo sempre pensarla nello stesso modo». Già, i nostri dissensi debbono sempre sorgere perché io sono nel torto. Sì, disse lui sorridendo, e c'è una buona ragione. Io avevo 16 anni quando voi siete nata. Una differenza importante allora, rispose lei, e senza dubbio voi mi eravate di molto superiore in giudizio in quel periodo delle nostre vite. Ma il volgere di 21 anni non porta i nostri intelletti un bel po' più vicino? Già, un bel po' più vicino, eppure non abbastanza vicino da darmi la possibilità d'avere ragione se la pensiamo in modo diverso. Ho sempre su di voi il vantaggio di un'esperienza di 16 anni, nonché di non essere una donna giovane e graziosa e una figliola viziata. Via, cara Emma, siamo amici e non ne parliamo più. Zia tua zia, piccola Emma, che dovrebbe darti un esempio migliore che di rinnovare vecchi rancori, e che, se non aveva torto prima, ce l'ha adesso. «Verissimo!» esclamò lei, «verissimo! E Muccia diventa una donna migliore di tua zia, sì infinitamente più brava e molto meno vanesia. Ora, Mr. Knightley, ancora una parola o due ho terminato. Quanto a buone intenzioni, avevamo ragione entrambi. E io debbo dire che nessuna conseguenza, dal mio punto di vista, ha ancora dimostrato che io abbia avuto torto. Mi preme solo di sapere che Mr. Martin non ha avuto una troppo amara delusione». «Un uomo non potrebbe essere deluso di più», fu la sua breve e completa risposta. «Ah, davvero mi dispiace moltissimo. Via, diamoci la mano». Questo era appena avvenuto e con grande cordialità quando comparve John Knightley. E «Come stai, George?» e «John, come va?» si succedettero alla genuina maniera inglese, nascondendo sotto una calma che pareva indifferenza il reale affetto che avrebbe spinto ciascuno di loro due, se fosse stato necessario, a fare ogni cosa per bene dell'altro. La serata fu tranquilla e dedicata alla conversazione. Poiché Mr. Woodhouse rinunziò del tutto alle carte per chiacchierare a suo agio con la sua cara Isabella, e la piccola compagnia si divise naturalmente in due, da una parte lui e sua figlia, dall'altra i due fratelli Knightley. I loro temi erano del tutto diversi, o molto di rado commisti, ed Emma solo di tanto in tanto s'accostava a uno o all'altro gruppo. I fratelli parlarono dei loro interessi e delle loro occupazioni, ma principalmente di quelle del maggiore, il cui carattere era di gran lunga il più comunicativo e che sempre era il più gran parlatore. Come magistrato aveva in genere qualche punto di legge su cui consultare John, o almeno qualche curioso aneddoto da raccontare, e come agricoltore, come amministratore della fattoria domestica di Donwell, egli aveva da riferire quale sarebbe stato il raccolto di ogni campo l'anno seguente e da dare tutte quelle informazioni locali che non potevano non interessare un fratello di cui quella era stata pure la casa per la più gran parte della sua vita e il cui senso d'attaccamento era forte. Il progetto d'un canale di scarico, il mutamento di un recinto, il taglio di un albero e la destinazione di ogni iugero a frumento, a rape, a grano marzolino furono discussi da John con tanta partecipazione di interesse quanta era resa possibile dalle sue maniere più riservate.